contro l'umanità. Sotto pressione il prezzo del petrolio, a rischio di gas dalla Libia. Allarme e corruzione in Italia per la pubblica amministrazione. Arriva dalla Corte dei Conti che chiede al governo di non limitare le intercettazioni. Terremoto in Nuova Zelanda, 65 vittime e decine di persone sotto le macerie nella terza città del paese. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, benvenuti a questa edizione di GR24. In apertura cerchiamo di fare ancora una volta il quadro della situazione in Libia, notizie che arrivano di ora in ora, notizie che ricordiamo, cerchiamo di ricostruire attraverso quelle che sono le fonti possibili, dato che al momento in Libia non ci sono praticamente giornalisti occidentali. Le notizie della mattinata parlano delle parole di Gheddafi, che conferma di essere ancora nel paese, e purtroppo anche di nuovi morti, decine, forse centinaia. Cristina Carpinelli qui in studio con noi per gli aggiornamenti. Sì, purtroppo, ovviamente, come dicevi tu Alessio, noi non possiamo dare dati precisi né verificare tutte le fonti. Sappiamo però che ci sono stati nuovi attacchi aerei su Tripoli con bombe e cecchini che stanno sparando sui civili. È un nuovo giorno di abusi che lascia il mondo intero sgomento davanti a quanto sta accadendo in Libia. Ieri con lo stesso sistema sono state uccise 250 persone nella capitale. Che si stia bombardando lo dimostrano le immagini di città devastate, l'aeroporto di Bengasi distrutto e sul quale non si può atterrare né decollare. Però la televisione di Stato libica continua a smentire ogni cosa. In effetti, stando a loro, quelle di questi giorni sono giornate tranquille. Per farvi capire, ieri sera, mentre si attendeva la messa in onda del discorso di Gheddafi, durato 20 secondi, la televisione di Stato mandava in onda danzatrici e canzoni locali. Cosa ha detto Gheddafi in questa apparizione? Ha detto che sta bene, che è a Tripoli e che quello che accade è una manipolazione delle informazioni da parte degli occidentali. Insomma, siamo alle ultime battute di una farsa sanguinosa che in una settimana ha ucciso più di 600 persone, tanto che l'ONU sta prendendo in considerazione l'ipotesi di aprire un'inchiesta per crimini contro l'umanità. I nostri connazionali ora. Un aereo sta per partire da Fiumicino proprio in questi istanti, un primo volo speciale di Alitalia concordato con la Farnesina, che si affiancherà ai voli di linea previsti per il rientro dei connazionali dalla Libia. Secondo quanto si è appreso, la compagnia ha messo a disposizione, oltre ai due consueti collegamenti giornalieri, uno già partito per Tripoli questa mattina alle 8:15, un volo speciale. Si tratta di un Boeing 777 capace di portare 280 persone. Per ora è tutto. Grazie Cristina Carpinelli. E come avete sentito, l'Italia è investita direttamente da questa crisi. Sono tre i fronti che ci riguardano. Ci sono gli interessi commerciali italiani in Libia, l'Italia è il primo partner commerciale della Libia. Poi ci sono i rapporti diplomatici con Tripoli, ma questo riguarda tutti i paesi occidentali. Poi però c'è anche la questione degli sbarchi di clandestini dal Nord Africa e che investono direttamente l'Italia. Si teme una guerra civile, ha detto il ministro degli esteri Franco Frattini oggi parlando della Libia. Allora facciamo il punto. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. È massima l'attenzione dunque del governo su quanto sta accadendo nel paese nordafricano. Il presidente del Consiglio Berlusconi ha parlato di inaccettabile violenza, chiedendo lo stop delle azioni contro i manifestanti. Siamo molto preoccupati, ha detto stamani il ministro degli esteri Frattini, per il rischio di una guerra civile e per i rischi di un'immigrazione verso l'Unione Europea di dimensioni epocali. Diversi al momento i fronti che impegnano l'esecutivo, a partire dall'aiuto ai nostri connazionali in Libia. Un C-130 militare pronto a partire per portar via 100 connazionali da Bengasi. Da Taranto salterà per la Libia anche la nave militare Mimbelli. Altro capitolo, come accennato dal ministro Frattini, quello dell'immigrazione, con le ripercussioni che si potrebbero avere sulle nostre coste meridionali. Domani il ministro dell'Interno Maroni terrà un vertice con i principali paesi coinvolti dall'emergenza. C'è poi da considerare le ripercussioni energetiche della crisi libica, con le forniture di gas che sembrerebbero a rischio. Di tutto ciò si parlerà nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi, in un vertice tra il premier e i ministri dell'Interno, degli Esteri, della Difesa e dello Sviluppo economico. In questo momento una nota del governo definisce prive di fondamento le voci su presunti aiuti militari italiani alle azioni contro i civili. Siamo vicini al popolo libico, afferma la nota di Palazzo Chigi. E da Roma è tutto. Grazie anche a te Vincenzo, e nel frattempo siamo in grado di farvi sentire le parole del ministro degli esteri Franco Frattini, che ha da poco terminato una conferenza stampa al Cairo dopo aver incontrato il suo omologo egiziano. Sentiamo. Condanniamo le violenze, chiediamo che l'uso della forza contro i civili e i manifestanti venga sospeso immediatamente e che parta un dialogo nazionale di riconciliazione. Siamo preoccupati per il rischio concreto di una guerra civile in Libia, che avrebbe conseguenze devastanti anche per il potenziale flusso migratorio che potrebbe partire da quel paese verso l'Europa, un flusso migratorio di dimensioni assolutamente epocali. Ci sono notizie date dal ministro degli esteri Abolgate, dal ministro degli esteri egiziano, secondo cui l'aeroporto internazionale di Bengasi è inagibile. Come si conta quindi far evacuare i nostri connazionali da Bengasi? Le modalità di evacuazione le diremo dopo che avranno avuto successo. E avete sentito il ministro degli esteri Frattini parlare del rischio di un flusso di immigrati dal Nord Africa e dalla Libia in particolare verso l'Italia. Ne parliamo e le diamo il buongiorno con Laura Boldrini, portavoce in Italia dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Partiamo da un dato di fatto. Sappiamo che negli ultimi due anni gli accordi con la Libia avevano garantito nel bene e nel male una riduzione dei flussi e degli sbarchi da 36.000 circa nel 2008 a 3.000 nel 2010. Adesso che la situazione sta precipitando, che cosa rischia l'Italia, Boldrini? Beh, intanto appunto questo crollo di arrivi equivale anche a un crollo delle domande d'asilo, perché per quella strada passavano principalmente persone in fuga dalla guerra e dalla persecuzione, quindi somali, eritrei, sudanesi. Dunque in questa situazione attuale io devo appunto far presente che ad oggi nel paese libico vivono anche parecchie migliaia di rifugiati e di richiedenti asilo di diversi paesi africani, i quali appunto io ho avuto delle telefonate di parenti molto allarmati. Oggi in quel paese si trovano particolarmente a rischio perché, come sapete, c'è questa presenza di mercenari africani che sono stati, sembrerebbe, reclutati dal regime per sparare sulla folla, e dunque c'è una sorta di risentimento verso la presenza degli africani, ma non tutti gli africani sono mercenari, quindi certo, diciamo, potrebbe esserci anche uno scambio da questo punto di vista, errori anche. Esatto, errori e persone che hanno avuto questa notte per esempio irruzioni in casa da parte di libici inferociti, quindi c'è una situazione della la crisi nella crisi. Dopodiché è prevedibile che queste persone possano tentare di attraversare il canale di Sicilia, così come molti libici che in precedenza invece non erano mai tra quelli che arrivavano sulle coste italiane. Dipende molto da che piega prenderà questa situazione, perché comunque sia, in ogni caso, sia che il regime regga e quindi ci sarebbero quindi questi rivoltosi che si sentiranno sicuramente in pericolo, sia che non regga e quindi quelli vicini al regime comunque si sentiranno loro a quel punto in una situazione di difficoltà nel paese. Quindi in ogni caso è prevedibile che ci sia un flusso anche di libici, e dunque è giusto predisporre i piani di intervento, perché comunque è una situazione che potrebbe arrivare a dei numeri consistenti. Per ora, ecco, questo non si è verificato. Naturalmente però fare dei numeri è sempre difficile, soprattutto per quanto riguarda la componente di immigrazione che potrebbe arrivare dalla Libia. Però per quanto riguarda l'altro tema a cui lei faceva riferimento, cioè i clandestini o comunque gli immigrati chiedenti rifugio che sono trattenuti in Libia per via di una serie di accordi più o meno ben o male interpretati. Su questo abbiamo letto delle cifre, qualcuno parla addirittura di 1 milione di persone. Che ne pensa di queste cifre? Quanti potrebbero essere? Voglio dire, io non so quali siano le fonti di queste cifre, in questi giorni si sentono cifre veramente di ogni genere. Io ritengo che sia giusto apprestarsi a essere pronti, operativi, con dei piani di emergenza. È anche importante però non essere troppo allarmistici, non usare toni troppo alti, perché anche questo poi crea come contraccolpo nell'opinione pubblica un sentimento d'assedio. Dunque, lavorare, predisporre, ma senza dare l'impressione che siamo alla vigilia di un'invasione, perché comunque l'Italia ha tutti gli strumenti per poter gestire una crisi. Io ricordo che dopo il regime di Enver Hoxha sulle coste della Puglia arrivarono decine di migliaia di albanesi e si trovò la situazione, si trovò la soluzione, si trovarono insomma i modi per gestirla, anche se non al meglio, però insomma ci sono gli strumenti per farlo. Dunque stare attenti e vigilare, predisporre, ma neanche insomma pensare che sia una cosa che potrebbe essere travolgente. Ecco. Stare attenti, vigilare. In 30 secondi le chiedo se crede come si sta comportando il governo italiano e se state collaborando in queste ore per risolvere la crisi. Sì, Noi stiamo collaborando con il governo, il ministro degli interni ha chiamato un tavolo con altre associazioni, organismi internazionali, stiamo cercando di fare la nostra parte e anche riteniamo che in questa crisi ci sia anche una lettura europea, perché in particolare per il gruppo di tunisini, l'unico gruppo che peraltro è arrivato finora sulle coste italiane, è vero che molti di questi giovani che non chiedono asilo ma sono migranti economici perché vogliono, come dire, hanno approfittato di questa occasione per andare all'estero, per vivere la libertà in questo modo, andare all'estero e trovare lavori, migliori opportunità. Ora, molti di questi vogliono andare in altri paesi europei, in Francia, in Germania, in Olanda, quindi è vero che c'è una connotazione europea e sarebbe un'ottima opportunità per l'Europa di mettere in campo una sorta di sinergia per suddividersi anche l'onere di questa situazione. Grazie Laura Boldrini, portavoce in Italia dell'Alto Commissariato dei Rifugiati delle Nazioni Unite. Faceva riferimento all'intervento europeo più volte evocato, ma non molto operativo sul campo, date anche le differenze di impostazione che ci sono in Europa nei diversi paesi, proprio in queste ore ne abbiamo parlato. E adesso parliamo delle ripercussioni economiche. L'Italia, primo partner commerciale della Libia, basta citare Eni, Unicredit, Finmeccanica, Impregilo e Ansaldo. Cerchiamo di capire la giornata in borsa com'è, c'è anche il capitolo delle materie prime. Deborah Rosciani, buongiorno. Allora, intanto sì, saremmo molto contenti di potervi dare la variazione percentuale dei titoli che avete citato oggi, ma come abbiamo ampiamente raccontato anche a Salvadanaio, abbiamo questo blocco tecnico di Piazza Affari che non ha aperto neanche le contrattazioni questa mattina. Per la verità, durante Salvadanaio avevamo anche lanciato la circostanza che Borsa Italiana nel giro di qualche minuto avrebbe dato nuove comunicazioni sulle ragioni di questa sospensione e anche sulla prospettiva di riapertura o meno del mercato. Non abbiamo ancora nessuna notizia, pertanto contiamo di darvela appunto nel corso dei prossimi giornali radio e in ogni caso stop alle contrattazioni da questa mattina, una circostanza che ha creato molto nervosismo fra i broker, fra gli operatori di borsa. Abbiamo interpellato noi stamattina Michele Calzolari, presidente di Assosim, le società di intermediazione immobiliare, sta creando anche una certa tensione con i soci di Londra, perché i trader londinesi si lamentano del fatto che non riescono appunto ad operare. Oggi avrebbero approfittato anche della giornata di borsa che continua ad essere molto volatile, almeno sulle altre piazze finanziarie, e questo fa perdere appunto molte occasioni di investimento questa mattina. Vedremo come questa situazione evolverà. Per il resto le borse europee sono di nuovo tutte quante negative. Pesano particolarmente Parigi che perde 1,5 punti, Londra perde 1 punto, Francoforte perde lo 0,33%, sulla scia dell'inasprirsi della crisi libica stamattina hanno chiuso piuttosto male anche le borse asiatiche, l'Hang Seng di Hong Kong è -2, Tokyo, penalizzata anche dalla revisione del giudizio di Moody's, ha chiuso con un ribasso dell'1,78%, il grande osservato speciale mercato delle materie prime, il prezzo del paniere OPEC del greggio è salito oltre la soglia dei $100 al barile, il prezzo del Brent a Londra è a 108 e questo insomma a testimonianza della tensione fortissima che sul mercato ancora persiste. Alessio. Grazie Deborah Rosciani. E in particolare per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Libia, anche dal punto di vista commerciale, il commento di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Il crollo della Libia ci coglie di sorpresa per un motivo semplice, l'assoluto appiattimento dei giudizi agli interessi predominanti che hanno impedito un'analisi anticonformista e veritiera, anzi forse qui qualcuno spera che con qualche centinaio di morti Gheddafi riesca a rimanere in sella perché non c'è in vista una soluzione di ricambio conosciuta. Per anni ci hanno detto Gheddafi non si tocca, ci dà il petrolio, ha quote delle nostre imprese, quindi non se ne deve parlare troppo, in compenso abbiamo ospitato le indicore carnevalate del colonnello ed è così che abbiamo reagito ai suoi massacri con colpevole ritardo. La Libia non è l'Egitto o la Tunisia, dicevano in questi giorni a Tripoli e da noi lo hanno ripetuto come un mantra, finendo per crederci. È vero, Tripoli non è il Cairo, né tantomeno Tunisi, è peggio perché la Libia è uno di quegli stati semifalliti che rischiano di disintegrarsi. Il rapporto tra l'Italia e la Libia finora è stato, a ben vedere, umiliante per tutte e due le amate e triste sponde. Speriamo che cambi. E c'è un'altra notizia che riguarda fonti di tensioni medio orientali, sono entrate nel canale di Suez e si dirigono verso il Mediterraneo le due navi da guerra iraniane, il cui passaggio proprio nel canale è il primo dalla rivoluzione iraniana del 1979, viene considerato da Israele come una grave provocazione. Negli ultimi giorni sembrava infatti che Teheran volesse desistere, invece il benestare al transito da parte delle autorità egiziane è arrivato questa mattina. mattina. La conferma è stata data a funzionari del canale di Suez che hanno precisato che le due navi sono entrate questa mattina e raggiungeranno lo sbocco del canale sul Mediterraneo nel corso di questa giornata. 13 e 18 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato soprattutto della situazione in Libia. Al Jazeera riferisce di nuovi bombardamenti da parte dell'aviazione sulle proteste, ci sarebbero centinaia di vittime. Anche oggi l'ONU parla di crimini contro l'umanità. Sul fronte economico continua a essere sotto pressione il prezzo del petrolio, mentre a rischio sarebbero, a quanto si apprende, le forniture di gas dalla Libia. Adesso tutte le altre notizie. A cominciare dall'allarme corruzione nella pubblica amministrazione, un allarme che deve restare alto, lo ha detto oggi il vice procuratore generale della Corte dei Conti Roberto Benedetti durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario. C'è stata anche una stoccata nei confronti del governo sul tema delle intercettazioni. Ci racconta tutto Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Una patologia ormai radicata nella pubblica amministrazione, si chiama corruzione, ma anche frode, malaffare, cattiva gestione. Dinanzi alle più alte cariche dello Stato, il procuratore generale e il presidente della Corte dei Conti, Ristuccia Giampaolino, puntano il dito contro le criticità della pubblica amministrazione, dove dal 2009 al 2010 la corruzione è aumentata del 30%, il settore più colpito, la sanità, in calo invece le denunce da parte dei cittadini, sintomo, dice la Corte, di una certa assuefazione al fenomeno, alla cultura della corruzione, dati dunque che non consentono ottimismi, dice Ristuccia. L'organo di magistratura contabile critica poi il governo su una serie di iniziative in materia di giustizia, come il DDL sulle intercettazioni, strumento questo essenziale per combattere la corruzione, no dunque ad una loro limitazione come vorrebbe invece il governo. E poi il processo breve, la Corte auspica che il DDL non sia un ulteriore ostacolo alla lotta alla corruzione, dubbi anche sul federalismo che potrebbe aumentare la corruzione nel caso in cui la vicinanza, interessi e lobby si favoriscano scambio di favori illeciti a danno delle comunità. Bene invece il disegno di legge anticorruzione approvato lo scorso anno dal governo, ma purtroppo, lamenta la Corte, rimasto fermo all'esame del Senato. E da Roma è tutta, buona linea. Grazie Alessandra Schepisi. Restiamo a Roma perché oggi si sono iniziati gli stati generali proprio della capitale. Presente il sindaco Gianni Alemanno, è stata anche l'occasione per fare il punto all'indomani della messa appunto del comitato promotore per la candidatura alle Olimpiadi Roma 2020. È stato nominato Pescante, ma sentiamo che cosa si è detto oggi con Andrea Viali. Buongiorno. Buongiorno Alessio, sì, è una o due giorni che, come dicevi, servirà a fare il punto sul futuro della capitale, quella che è iniziata stamattina all'Eur, l'occasione per presentare il piano strategico di sviluppo elaborato dall'amministrazione comunale, dal Campidoglio, molti gli interventi in cantiere, la pedonalizzazione del centro, l'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino, lo sviluppo del parco fluviale, la città dei giovani a Tor Vergata, tanto per citarne alcuni. Si tratta di un piano che muoverà investimenti per 22 miliardi di euro, in gran parte risorse private o finanziamenti europei, ha detto intervenendo qui all'Eur il sindaco Alemanno, che ha parlato anche della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020. Sentiamo cosa ha detto. Se verranno le Olimpiadi e se riusciremo, come noi siamo convinti di poter fare, non ci sarà un'opera delle Olimpiadi che sarà fine a se stesso, e soprattutto noi vogliamo fare in modo che non ci siano procedure speciali, che tutto sia in trasparenza, che non ci sia nessun aspetto oscuro, perché noi dobbiamo dare anche un esempio di chiarezza nelle procedure. Vedete, le Olimpiadi per Roma sono importanti anche come messaggio culturale, perché le Olimpiadi sono il luogo in cui le identità, le bandiere, le squadre competono e imparano non a scontrarsi, non a fare antagonismo, ma a fare agonismo, che significa competere secondo principi di lealtà. Delle Olimpiadi, ma anche del restauro del Colosseo, si parlerà anche domani, giornata conclusiva di questi stati generali della città di Roma, giornata nella quale interverranno anche il premier Berlusconi e il ministro dell'economia Tremonti. Per ora è tutto, Alessio. Grazie, grazie anche a te Andrea. Dunque il collegamento da Roma, e di Roma parleremo ancora con un approfondimento in Italia in Controluce alle 13.30, recenti casi di cronaca nera e la parentopoli romana. E adesso torniamo all'estero, andiamo in Nuova Zelanda perché nella notte italiana c'è stato un terremoto di magnitudo 6.3 nella terza città del paese, 65 fino ad ora le vittime accertate, ma si scava ancora sotto le macerie. La Farnesina fa sapere che non ci sarebbero al momento italiani coinvolti. Sentiamo. Si lotta contro il tempo a Christchurch, nell'isola del sud della Nuova Zelanda, per salvare gli eventuali superstiti del devastante terremoto di questa mattina. Una scossa potentissima, magnitudo 6,3, molto superficiale quindi dagli effetti devastanti, che ha colpito la seconda città del paese, 380.000 abitanti, in piena ora di punta, alle 12.51, l'una meno 10 di questa notte in Italia. Il numero delle vittime finora accertate, 65, è purtroppo destinato a salire nelle prossime ore. Interi palazzi, molti edifici storici della città, compresa la cattedrale anglicana, cuore di Christchurch, si sono sbriciolati al suolo. Ero al quarto piano, correvo, la gente urlava, abbiamo aiutato un uomo incastrato sotto un blocco di cemento, racconta questo testimone. Per il sindaco Bob Parker, che ha ordinato l'evacuazione della città, sotto le macerie ci sarebbero ancora tra le 150 e le 200 persone. Un gruppo di studenti giapponesi intrappolati in un edificio di 6 piani avrebbe chiesto aiuto via mail. We are in the middle of a major disaster. Siamo in mezzo a un disastro enorme, ha detto il primo cittadino. Prima di lui il premier neozelandese John Key aveva parlato del giorno più cupo per la Nuova Zelanda. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vi abbiamo parlato della chiusura della borsa oggi per cause che non sono state ancora chiarite, e c'è da registrare una lettera della Consob all'amministratore delegato della borsa, in cui la Consob chiede di chiarire al più presto l'episodio e soprattutto di predisporre adeguati correttivi affinché situazioni simili non si ripetano in futuro. Questa è la Consob sul blackout oggi in borsa. Adesso parliamo di calcio. Di ieri l'ufficializzazione di Vincenzo Montella al posto di Claudio Ranieri. La Roma prova così a ripartire. Una rivale storica della Roma è la Juventus, due squadre però accomunate da un difficile momento in questa fase della stagione. Dario Ceccarelli ne ha parlato con un ex di lusso di entrambe le sponde, Zibi Boniek. Zibi Boniek, lei ha giocato sia nella Juventus che nella Roma. Sono due crisi diverse, quella di Juventus e Roma, o sono due grandi che fanno fatica a fare i conti con un calcio che è cambiato? Sicuramente qualcosa di diversa c'è, anche per il semplice fatto che sicuramente la Juventus oggi c'è una struttura societaria ben diversa da questa della Roma, che come tutti vediamo sta in fase di cambiare la proprietà. Questo, direi, la radice delle crisi è forse diversa, però la sostanza non cambia. Sia la Roma sia la Juventus hanno difficoltà di esprimere il proprio gioco in campo. Chiaro che io ho giocato in tutte e due squadre, per anni erano diverse, queste due squadre erano più forti, contavano solo loro, quasi sempre era il duello tra Roma e la Juventus. Oggi ci sono inseriti altri, ci sono due squadre milanesi, crescono Napoli, Palermo e tanti altri, per questo penso che bisogna adeguarsi ai tempi. Forse dietro tutta questa crisi c'è un po' di campagna acquisti un po' sbagliata, forse non si è riuscito a individuare qual è la forza della squadra, non si è capito quali sono le prospettive dove si può arrivare. Per quanto riguarda la Roma, tutti aspettano l'ingresso di nuovi proprietari e anche in questo punto la Roma può sperare di far bene. La Roma adesso ha scelto Montella, un allenatore diciamo esordiente. Secondo lei è una scelta giusta? Ma direi che in questo momento si va molto su autogestione, perché è chiaro che Montella è uno che ha rapporti diciamo cordiali di amicizia quasi con tutti i giocatori con cui ha giocato. Se è scelta giusta o sbagliata la vediamo prossimamente. Io ritengo che questo è sicuramente un salto in buio. La Roma questo anno ha fatto una grande scommessa su Adriana e mi sembra che non è che la sta vincendo. A Montella auguro tutto bene possibile, spero che riesca a dare una mano alla squadra, a ritornare a fare qualche vittoria, anche perché per l'anno prossimo con nuova proprietà la Roma non vorrebbe partire da troppo basso ma avere un posto tra i lead delle squadre italiane. 13:27 minuti, è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio e Filippo Aureggi in regia. Vi auguro una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.